si può, signori, scusatemi se da sol mi presento, io sono il prologo, poiché in scena al cuor le antiche maschere mette l'autore, in parte vuol riprendere le vecchie usanze e a voi Andiamo, incominciamo!